Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. È giornata molto molto intensa sul fronte, devo dire, più economico che finanziario. Perché? Perché se le borse sono invariate in tutta Europa, devo dire oggi Milano per fortuna non fa eccezione, o purtroppo nel caso dei rialzi, più 0,1% Milano, meno 0,1% Francoforte, meno 0,1% Parigi, meno 0,4% Londra, che è la peggiore. L'America perde però lo 0,6%. Dicevo, se le borse sono abbastanza tranquille, quantomeno per gli indici, e l'euro è di nuovo sotto quota 1,40, 1,39, le notizie più importanti riguardano oggi soprattutto l'Italia. E allora, nell'ordine, ci occuperemo con il presidente della Confesercenti, quindi l'associazione che riunisce assieme alla Confcommercio il maggior numero di lavoratori autonomi degli esercizi commerciali, dai bar, ristoranti e negozi, che nel fine settimana ha lanciato un allarme: attenzione col federalismo fiscale, con la possibilità che hanno le regioni, dopo quello che ha deciso il governo il 17 ottobre, di portare l'addizionale IRPEF fino a un 2,1% in più come aggiunta all'IRPEF nazionale. I commercianti pagheranno, e le piccole imprese, gli artigiani, potranno arrivare a pagare fino a 1.250 euro in più all'anno. Vorremmo capire, perché abbiamo sempre sentito dire che questo federalismo veniva fatto a costo zero, cioè non aumentando di fatto la tassazione, non facendola scendere probabilmente, ma non aumentandola. Secondo aspetto che tratteremo, il dramma che stanno ancora vivendo gli abitanti del Vicentino, di parte del Padovano, di parte del Veronese. L'appello forte lanciato nel fine settimana in esclusiva a Radio 24 da parte del vicepresidente della Confindustria di Vicenza, che ha detto: attenzione, se ci toccherà fare da soli, faremo da soli anche dal punto di vista del pagamento delle tasse, cioè non pagheremo le tasse, sciopero fiscale. E anche di questo parleremo con, a questo punto, il presidente dei piccoli imprenditori italiani, Vincenzo Boccia. E ancora sempre sul tema di carattere economico, molta polemica sta montando sulle dichiarazioni del ministro Sacconi, che oggi, inaugurando nella prima giornata il forum delle famiglie, l'orientamento dei convegni, l'orientamento cattolico non è un mistero per nessuno, ha detto: gli aiuti alle famiglie, gli aiuti per i figli solo alle coppie sposate e quelle che dichiarano, diciamo, di unirsi per procreare. È chiaro che la polemica è tutta politica, avremo un accenno anche noi, poi domani, vi anticipo, torneremo più approfonditamente sul tema, non tanto degli annunci, ma di quello che effettivamente accade, perché in questo paese la famiglia è un po' come le province: quando c'è odore di elezioni tutti parlano di quoziente familiare e di abolizione delle province. Siccome l'odore è molto forte, non vorremmo vedere un film già visto. Domani avremo una puntata intera, buona parte, dedicata alle politiche effettive che Francia, Spagna e altri paesi fanno per le famiglie con figli, e quello che invece viene promesso, dichiarato, annunciato in Italia, però non accade. Sarà un caso, ma noi abbiamo un tasso di crescita demografica che è meno della metà di quello francese, e non penso siano, diciamo, meno orientati alla famiglia francesi di noi o anche i tedeschi. Questi temi di apertura, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente la borsa, visto che già la chiedete, la delusione di Enel Green Power, lo so, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, molti sono rimasti delusi, oggi però non è tra i titoli peggiori, non è neanche tra i migliori. Comunque, in assoluto, chi perde molto è Italcementi, meno 3,70, seguita da Pirelli, meno 2,30, Mediaset, meno 1,60, Prismian, meno 1,3 come Azimut e Bulgari, e l'1% lo perdono Fondieri, Assai e Buzzi Unice, ma anche Telecom Italia. Chi guadagna di più? Tenaris più 2,90, Intesa San Paolo più 2,2, Popolare di Milano più 1,40 e Steam Microelectronics più 0,90 come UbiBanca. Oggi abbastanza positivi i bancari, perché anche il Banco Popolare guadagna lo 0,70% come Unicredito. 349-238-6666 per gli sms. Andiamo rapidi, che i temi oggi sono molti, perché c'è anche Chrysler, avete ragione, buoni risultati della controllata americana di Fiat Chrysler e alcune dichiarazioni anche importanti. Dicevo, rapidamente le notizie in breve. Allora, i mercati come sempre in apertura, petrolio $86,60, sempre alto, oro in leggero calo ma sempre a 1388, e poi le dichiarazioni di Barack Obama oggi, che nel suo viaggio che lo sta portando in tutta l'Asia, per la precisione oggi era New Delhi, ha detto, insomma, noi non appoggeremo più paesi che come la Cina hanno grandi surplus, perché devono guardare alla loro economia interna. E attenzione, la cosa peggiore per il mondo è se gli Stati Uniti avranno una crescita minima o nessuna crescita economica. Sul fatto che Barack Obama non voglia più appoggiare, vorremmo capirci meglio, poi magari vi torneremo. Appoggiare come? Economicamente, a livello di ONU, di voti assieme, di politica internazionale. Comunque si va via via verso una frizione sempre maggiore tra Stati Uniti e Cina. Andiamo e spostiamoci in Europa. Invece è calata a sorpresa in Germania la produzione industriale. La Germania in questo momento è la locomotiva, lo abbiamo ripetuto molte volte, ma insomma su base mensile meno 0,8% rispetto a agosto, e le previsioni erano di un aumento dello 0,4%. Resta buona la produzione industriale tedesca, però su base annua, cioè rispetto a settembre del 2009, più 8%. Non meravigliatevi se fra qualche giorno, settimana, dovremo commentare la situazione tragica in Irlanda, perché ogni giorno continua a salire il rischio debito irlandese, dello Stato irlandese, misurato attraverso i due strumenti più affidabili, ossia quanto rende un'obbligazione irlandese rispetto a un bot equivalente tedesco, e rende sempre di più, quindi vuol dire che per comprare debito irlandese l'Irlanda è obbligata a dare interessi sempre più alti, e quanto costa rispetto sempre all'obbligazione, al debito tedesco, assicurarsi nel caso di un crack irlandese, costa sempre di più. Queste ultime polizze assicurative si chiamano Credit Default Swaps, CDS, e insomma sono aumentati a un nuovo record, 606 punti. Io ricordo che la Grecia arrivò a 800 punti, insomma qua purtroppo ci si sta avvicinando. Tornano a crescere invece in Italia i consumi di energia elettrica, più 1,1% a ottobre di quest'anno rispetto a un anno fa, lo ha misurato oggi Terna. E poi la Banca d'Italia ha stilato l'indice dei fatturati delle imprese italiane. Nei primi 9 mesi dell'anno le aziende del centro-nord hanno fatto un più 2%, quelle del sud invece ferme. E tra l'altro il campione di 2800 imprese. Chrysler, ripeto, ne parliamo dopo i mercati, comunque migliora tutto l'obiettivo per il 2010, l'utile operativo va a $240 milioni, i risultati del terzo trimestre di Chrysler sono stati migliori delle attese, e quindi Marchion sembra sulla buona strada per quello che riguarda la controllata di Fiat in America, per ora è così, poi se sarà Chrysler a controllare Fiat in Italia non lo so, rispondo ad alcune battute che arrivano al 349 238 6666. E tra l'altro Marchionne ha detto questo è solo l'inizio del risanamento della Chrysler. Ancora la 500 torna negli Stati Uniti, sbarca negli Stati Uniti ufficialmente, quindi torna la Fiat nel mercato americano. Un'ultima notizia prima di partire con il tema della politica per le famiglie, che molte polemiche sta suscitando. Allora, oggi nel corso della 21esima edizione della tavola rotonda con il governo italiano, organizzata da Business International, ai manager presenti è stato chiesto, meglio manager imprenditori, sono tutti infatti manager di imprese, per cui in alcuni casi sono imprenditori, in altri casi manager, insomma è stato chiesto, meglio la crisi di governo o lo stallo di questa fase politica? 2 su 3, il 64%, ha detto meglio la crisi. Una lieve maggioranza poi dice il 38% dopo la crisi, meglio un governo tecnico, un 26% dice no, crisi, fine della legislatura, voto anticipato come soluzione migliore. Insomma, nel mondo delle imprese abbiamo sentito gli artigiani la scorsa settimana, la Confindustria la settimana, 2 settimane fa. Oggi sentiremo anche i commercianti. Nel mondo delle imprese, lo diciamo senza nessuna connotazione politica, è chiara il giudizio, così non si può andare avanti, meglio trovare uno sbocco in qualche modo, perché l'azione di governo è una inazione in questo momento. Detto ciò, sentiamo quali dichiarazioni, perché non ci sono provvedimenti, ma dichiarazioni sono arrivate dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, organizzata dagli Osservatori Nazionali sulla Famiglia, che è di matrice tendenza cattolica, e dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio, fino al 10 novembre qui a Milano. 349-238-6666 per gli sms. Allora, dice e ha detto il ministro Tremonti, non nel forum delle famiglie, nella sua lezione magistralis all'Università San Raffaele, concentrare le risorse sullo Stato sociale. E poi, però, insomma, tutte le polemiche o il dibattito politico si sta concentrando su una dichiarazione del ministro welfare Maurizio Sacconi. Cosa ha detto Sacconi? Ha detto che sarà creato il casellario delle famiglie e comunque che i sostegni, che ancora non ci sono, nel senso che stiamo parlando di sostegni futuri, devono andare solo alla famiglia naturale fondata sul matrimonio e orientata alla procreazione. Non occorre avere la fede per capire che la politica pubblica si occupa della famiglia naturale fondata sul matrimonio e orientata alla procreazione, senza nulla togliere al rispetto che meritano tutte le relazioni affettive, ma che, ripeto, riguardano una dimensione privatistica. Le politiche pubbliche, quelle politiche pubbliche che si realizzano attraverso le leve delle prestazioni assistenziali, dei benefici fiscali, che si realizzano attraverso il riconoscimento, per esempio, della pensione di reversibilità in favore del coniuge sopravvissuto. Queste politiche pubbliche sono tarate sulla famiglia naturale, fondata sul matrimonio e orientata alla procreazione. Questi sono i due richiami che io ho voluto fare alla carta, rispetto ai quali ho avvertito differenze con il Presidente da un lato e con l'Assemblea Futurista di ieri, nella quale ci sono stati interventi come quello di Della Vedova, esplicitamente rivolti a mettere in discussione questo criterio che io ho sottolineato. Allora, è il passaggio sulla famiglia fondata sul matrimonio e quindi che è tutto da spiegare, perché non so se si possa fare una politica fiscale che tagli fuori le coppie di fatto dopo la decisione che è arrivata proprio a livello anche legislativo di riconoscere i figli naturali, quelli nati dal matrimonio, quelli nati da fuori dal matrimonio. Lo dico a chi già scrive, c'è un ascoltatore che dice: non avete argomenti migliori oggi? Evidentemente no, però se lei ce li vuole suggerire siamo qui apposta. Detto questo, non mi appassiona molto il tema del quale famiglia, a me appassionerebbe di più il tema degli aiuti veri e propri, perché qua si è visto niente a livello fiscale, niente. Per sapere perché l'Italia spende per la famiglia come Stato l'1,4% per famiglia e maternità, l'1,4% del PIL, il dato del 2009, ed è sostanzialmente fermo negli ultimi anni. La Francia spende il 2,5% del PIL, cioè vuol dire 14 miliardi di euro all'anno in più. La Germania spende il 2,8%, cioè siamo quasi a 20 miliardi, 17 miliardi di euro in più. Poi vabbè, lasciamo stare i paesi scandinavi che spendono il 3%, la Svezia, il 3,8% la Danimarca, ma basterebbe la Francia, cioè 14 miliardi di euro in più all'anno, se vogliamo essere concreti. Poi invece qua le polemiche sono sempre su coppie di fatto, coppie non di fatto, ma soldi, o per meglio dire schei, come dicono a Vicenza in questo periodo, non se ne vedono. E allora parliamo di schei, perché il nostro Simone Spezia ha chiesto al ministro Sacconi, ma insomma le varie iniziative, quoziente familiare ha un costo, noi poi domani nel GR avremo un approfondimento dedicato proprio all'esperimento di Parma. Parma ha tentato di applicare il quoziente familiare, ossia se tu guadagni, poniamo, 30.000 euro lordi l'anno, ma sei senza figli, hai una certa tassazione. Se tu guadagni 30.000 euro l'anno e però mantieni due figli e una moglie, ne hai un'altra. Sembra strano, ma attualmente non è così. Comunque, il nostro Simone Spezia ha chiesto a Mizzo Sacconi le risorse, dove sono? La risposta, diciamo, non è proprio da educande, comunque. Abbiamo dato insomma un'occhiata alle idee anche lanciate dal ministro Giovanardi sul fronte del piano per la famiglia. Mi sembra che lo scoglio fondamentale siano le risorse, al di là delle... Mi sembra una stronzata quella che dice, perché vede, le risorse devono essere riallocate, riorganizzate, ma non dimentichiamo quanto spendiamo per la famiglia. Non avremmo d'altronde il grande debito pubblico che abbiamo se non avessimo una forte dimensione della spesa diretta o indiretta attraverso il fisco. Noi parliamo di circa 37 miliardi di prestazioni INPS al netto delle pensioni, cioè senza le pensioni. Basti pensare che solo per la non autosufficienza spendiamo di prestazioni INPS 16 miliardi, che in senso stretto di prestazioni riferite alla famiglia da parte dell'INPS sono 10 miliardi, che le agevolazioni fiscali in senso stretto per la famiglia sono 18 miliardi. Allora il problema non è il fondo sociale in senso stretto, che parliamo di qualche centinaio di milioni che peraltro si definiranno nell'ambito del decreto o della legge di stabilità a seconda di come procederemo d'intesa col Parlamento nei prossimi giorni, né sono in sé 400 milioni per la non autosufficienza, quando, come ho detto, solo l'INPS spende per la non autosufficienza 16 miliardi, o il Fondo Sanitario Nazionale destina risorse importantissime dei propri oltre 100 miliardi alla non autosufficienza. Il punto è riuscire a riorganizzare queste risorse in modo che più efficacemente sostengano la famiglia, soprattutto in proporzione alla sua composizione e nella sua composizione ai soggetti deboli dalla non autosufficienza, ai minori, con attenzione specifica alla natalità. Risposta: fatelo. 2 anni di governo, fatelo, cioè non se ne può, ma lo dico, centro-sinistra, centro-destra, non me ne frega assolutamente nulla, non se ne può più di sentir parlare di quozienti familiari da 3 anni, di abolizione delle province da 3 anni. Fatelo, bisogna organizzare la spesa, bisogna destinare risorse a parità di conto economico, perché ha ragione anche Tremonti nel dire che il debito va tenuto sotto controllo e il deficit pure. Fatelo, riorganizzatele, perché continuare con polemiche? Scusate, ma abbiamo fatto decine di puntate sulle politiche per la demografia e la famiglia in questo programma, non è cambiato niente. Invece le polemiche in questo paese si producono, il nostro primo dato sull'export. Fatelo, riorganizzate la spesa e così vediamo se arriverà un po' di più per i quozienti familiari, per la parte fiscale, per chi ha 3 figli, che di agevolazione ne ha pochissime, invece di andare sempre sui temi etici, religiosi, mamma mia. Forse perché quelli sono a costo zero. Vabbè, sentiamo il presidente del Forum Famiglie, Francesco Belletti, al microfono il nostro Simone Spezia, che spiega in che cosa consiste la proposta del fattore famiglia elaborata dal Forum e su come si differenzi dal tema invece del quoziente familiare. Il fattore famiglia è la nostra richiesta, la nostra proposta. C'è un tavolo di confronto con le forze sociali del ministro Tremonti, a cui siamo stati invitati, che è aperto anche a noi, e quindi credo che lì, al di là delle formule, si troveranno le soluzioni. Ecco, ci spiega come funziona rispetto al quoziente familiare, cioè qual è la differenza di questo fattore famiglia? La vera differenza è che noi individuiamo una no tax area familiare, quindi diciamo che i soldi spesi per la cura dei figli non devono essere tassati. Questo fa equità tra le famiglie secondo i carichi familiari, quindi è anche un sistema di fisco sussidiario, lascia i soldi in mano alle famiglie per i propri compiti, e poi con un coefficiente familiare, quindi riconoscendo in modo forte i pesi familiari, individua questa area su cui non si viene tassati, e poi abbiamo dato un beneficio fiscale sull'aliquota più bassa, quindi in questo modo ogni figlio vale lo stesso valore di beneficio fiscale a prescindere dal livello di reddito della famiglia, che era una delle criticità del quoziente. Quindi è una formula, come dire, equa per tutti i bambini, equa tra chi ha figli e chi non ha figli, e potenzialmente costituisce anche un grosso fattore di protezione per le famiglie numerose che hanno redditi medio-bassi, quindi ha anche un forte impatto di prevenzione della povertà e della fragilità economica, e a partire da questo, che siamo ovviamente disponibili a discutere con tutti i tecnici, crediamo che si possa costruire in tempi rapidi e urgenti, perché questa è una priorità del sistema paese, lo ha riconosciuto anche il sottosegretario Giovanardi, lo ha riconosciuto il ministro Carfagna, cioè mettere mano alla riforma del fisco, dando equità familiare, è una priorità assoluta. Quanto costa? Ci sono molte opzioni, i costi sono variabili, le stime vanno dai 5 ai 15 miliardi, ma credo che i conti li possa poi fare solo il Ministero dell'Economia. L'importante è introdurre il valore, e poi c'è anche un tema di gradualità, potremmo darci un piano di 5 anni per una implementazione graduale, quindi prima del domandarci quanto costa dobbiamo domandarci quanto è giusto e quanto è urgente. Allora, così il presidente del Forum Famiglie Francesco Belletti, ripeto perché è vero, è un tema a cui teniamo, perché non c'è cosa più frustrante per chi sta da questa parte del microfono di affrontare i temi da anni, dichiarazioni su tutto, le coppie di fatto, i dico, il quoziente familiare, e poi non capita niente. Allora, questa è una proposta, quella del forum delle famiglie, il fattore famiglia, cioè invece che avere un quoziente familiare che sulla base della dichiarazione dei redditi e i figli che hai ti abbassa le tasse, c'è il timore che con l'evasione che c'è in questo paese diventino cornuti e mazziati due volte quelli che già pagano e invece si salvino quelli che evadono. Allora dice il forum, facciamo che non sono tassate tutte le spese dimostrate per i figli, che uno guadagni 60.000 o 6.000, poco importa, perché in questo modo garantiamo la spesa per il figlio. È un altro approccio, va benissimo, c'è chi dice appunto defiscalizziamo il figlio e basta, chi se ne frega quanto guadagni, tutto bene, però vorremmo avere poi risposte concrete e ci dicesse in questo caso il ministro Sacconi quanti soldi può riuscire attraverso un ricalcolo, visto che le cifre le conosce così bene, destinare per politiche per la famiglia, per portare quanto spendiamo dall'1,5% alla media francese, cioè il 2,5%. Tutto il resto sono chiacchiere, visto che lui ha detto che la domanda era una stronzata, noi possiamo rispondere in questo modo, senza polemica, ma insomma. Meteo, pubblicità e poi sentiamo invece cosa temono i commercianti, poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, notizie dell'ultimo minuto sul tema della famiglia e poi passiamo alla borsa. Alcune risposte e poi la correzione del ministro Sacconi che è arrivata adesso. Dunque, alcuni non ce la fanno proprio, devono buttare tutto in politica, il centro-sinistra non ha fatto niente. Allora, abbiamo detto che la spesa per la famiglia in Italia è da anni, non è un problema di centrodestra, ferma a un livello che è la metà di quello francese, meno della metà di quello tedesco, lasciamo stare la Scandinavia, ok? Allora, è inutile continuare a parlare di famiglia solo a livello ideologico, la famiglia naturale, la famiglia sposata, va bene, sono polemiche interessanti, però vorremmo vedere i soldi, come scrivono molti ascoltatori che hanno due figli, tre figli, immagino sposati, non me ne frega nulla, ma che dicono abbiamo visto nulla, qualche decina di euro all'anno, non c'è niente in questo paese per... come quoziente familiare, come fiscalità di vantaggio, chiamatela come volete, per chi ha dei figli, non c'è nulla, o briciole. Ancora, alcuni dicono insomma, cosa ha fatto il centro-sinistra, neanche voleva il quoziente familiare, non mi interessa, il punto è cosa si farà, non gli annunci, quali risorse nel prossimo CDM, quello in cui la Prestigiacomo si è scornata con il ministro Tremonti. Ci saranno risorse, Sacconi dice, vanno rimodulate, rimodulatele, fatelo e saremo qui a dare ampio spazio a ministro Sacconi, a tutti i sottosegretari che vorranno, come sempre in questo programma. Però rimodulatele, basta con le dichiarazioni di principio e di interesse. Detto ciò, il ministro Sacconi poco fa ha corretto il tiro perché ha detto non intendevo la famiglia, solo noi figli solo di coppie sposate, ma anche i figli di coppie di fatto. Ovviamente, gli sto chiesto, mi scusi, ma lei ha detto che gli aiuti vanno dati solo ai figli che provengono dal matrimonio, ha detto ovviamente, citavo gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione che si basano sulla famiglia naturale, che è basata sul matrimonio e della natalità più in generale, anche di quella fuori dal matrimonio, quindi gli aiuti vanno anche ai figli delle coppie non sposate, ovviamente sì, non sono un nazista. E con questa correzione importante, anche se la nostra polemica riguarda poi gli aiuti complessivamente dati, passiamo alla borsa. E poi comunque domani ne parleremo, avrete modo anche per criticare, sfogarvi al 349-238-6666. Domani la borsa, oggi poche notizie, per fortuna ogni tanto, più 0,1% Milano. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Borsa incerta, quindi che è successo ai settore cemento e costruzioni? Italcementi meno 3,52, Buzzi Unice meno 1,20. Sì, è andato male tutto il settore delle costruzioni, in verità era debole già dalla scorsa settimana, visto che il gruppo francese Lafarge aveva pubblicato conti di bilancio poco esaltanti. Poi a ruota venerdì scorso hanno pubblicato la trimestrale Italcementi, trimestrale che non è piaciuta al mercato, e Cementir, anch'essa non è piaciuta al mercato. Questa mattina a rincarare la dose anche Dikeroff, la controllata tedesca di Buzzi, che ha pubblicato una trimestrale giudicata deludente dagli analisti, con un utile netto in calo del 48%. Per cui okay. Pirelli meno 2,1%, Mediaset meno 1,7%. Sì, Pirelli in questo caso non è che vi siano delle notizie particolari, era salito molto nelle ultime settimane prima della presentazione del piano industriale, un po' di prese di beneficio. Per quanto riguarda Telecom, meno 1%, continua la debolezza della società dopo i conti pubblicati giovedì scorso, che non sono piaciuti agli analisti, non tanto i conti consolidati risultati superiori al consensus, ma quelli sulla telefonia mobile italiana. Ancora, andiamo rapidi oggi perché ho tanti temi, scusa Eleonora, per quello che riguarda invece chi è andato bene, Media, se tu ricordavi che c'era un report interessante di Citigroup la settimana scorsa che diceva il titolo, no? Abbassiamo un po' l'outlook perché l'eventuale crisi di governo e le vicende ultime, gli scandali, escort, non escort, possono avere ripercussioni negative sul titolo. Vabbè, Tenaris più 2,70 e bene le banche, Intesa più 2%, Polare di Milano più 1,20, Ubibanca più 1%, Unicredit più 0,80, Banco Popolare più 0,60. Sì, per quanto riguarda le banche hanno cercato di rialzare la testa, soprattutto alcune, Intesa San Paolo più 1,9%, domani verranno pubblicati i dati e l'attesa per i conti trimestrali ha sospinto in alto anche Unicredit più 0,78% e BPM più 1,25%, tutte appunto domani che pubblicheranno i dati. Quanto a Tenaris, effetto trimestrale, la società venerdì a borsa chiusa ha reso noto i conti del terzo trimestre, chiusi con un utile netto in rialzo del 28% e soprattutto i manager del gruppo hanno fornito indicazioni positive per i mesi a venire e per il 2011, hanno inoltre annunciato un acconto sul dividendo di 0,13 dollari in pagamento dal 25 novembre. Ancora, diciamo bene i bancari, in pregiro più 1%, UBI più 0,95, bene anche di Unicredit, abbiamo detto Unipol più 0,20, poca roba. Tra i titoli segnaliamo anche Prismian in calo meno 1,50, Bulgari meno 1,20, Fondiaria e Telecom Italia meno 1%. Telecom continua questa preoccupazione degli analisti, nonostante la trimestrale, Leonora, 1,02 euro il titolo, Sì, esatto, infatti i numerosi analisti hanno un po' tagliato le stime, soprattutto preoccupa l'andamento della telefonia mobile italiana che è risultato veramente deludente, anche se l'amministratore delegato Franco Bernabè giovedì scorso durante la conference call ha cercato di gettare acqua sul fuoco dicendo che il mercato è più complesso del previsto, ma si scommette poi su una ripresa magari a partire dal prossimo anno. Ancora, per quello che riguarda i titoli, Azimut meno 1, Ansaldo STS meno 0,90, come A2A meno 0,70, Cire, Snam, Retegas, ma anche Enel, i migliori e i peggiori in assoluto, Montefibre più 8,60, TXT più 6,60, Retelli più 6,20, Siemens più 3,60, EMS più 3%, i peggiori, Landi Renzo meno 6,6, Vita, società editoriale meno 6%, Arena meno 5,75%, Premafin come si è mossa? Perché Premafin c'era oggi non oggi, ma c'è una descrizione sulle 24 ore insomma, sul piano di finanziamento. Premafin si è mossa bene per tutta la seduta, infatti ha segnato dei consistenti rialzi, poi ha chiuso con un progresso dell'1%, ovviamente l'attenzione rimane elevata dopo che soprattutto anche il Sole 24 Ore ha riferito l'indiscrezione in base alla quale le banche avrebbero dato il via libera al piano di riscadenziamento su un prestito da 320 milioni, avrebbero inoltre congelato gli interessi fino al 2011. Allora, grazie Don Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Il traffico, poi parliamo invece dell'allarme che ci ha lasciato molto sorpresi, dei commercianti che dicono: se passerà il federalismo approvato in Consiglio dei Ministri vi saranno 1260 euro in più a testa di tasse. Vorremmo capire perché. Dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta, poi risponderemo anche a alcuni ascoltatori sul tema della famiglia. Vedo che continuate a scrivere in chiave politica, evidentemente non sono riuscito a farmi comprendere, però cerchiamo di capire che cosa è successo invece dallo studio del fine settimana distribuito dalla Confesercenti, perché la Confesercenti, che è una delle due associazioni importanti assieme alla Confcommercio nel mondo del commercio, dice: attenzione, l'attuazione del federalismo fiscale porterà un aumento delle tasse per lavoratori autonomi e piccole imprese. Siamo in collegamento con il presidente Marco Venturi della Confesercenti. Buonasera. Buonasera. Allora, presidente, come dicevamo in apertura, voi siete usciti nel fine settimana con uno studio che a qualcuno ha fatto gelare i polsi. Perché? Perché avete stimato che il federalismo fiscale, nella formula già approvata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 7 ottobre, quindi la possibilità per le regioni di far variare l'addizionale IRPEF non più dello 0,5% massimo come adesso, cioè la regione può arrivare fino allo 0,5% in più, ma fino a un 2,1% in più entro il 2015, dal 2015, potrebbe portare a un costo, diciamo, per gli artigiani e il mondo del commercio di 1260 euro l'anno, ho capito bene? Sì. Ecco, com'è che ci siete arrivati a questo calcolo, mi scusi? Ma diciamo, abbiamo stimato quale potrebbe essere l'effetto, diciamo, dell'utilizzazione massima dell'aumento e quindi l'incidenza che ha sui redditi attuali, insomma. Quindi riteniamo che questo è un fattore non positivo, perché le imprese stanno in difficoltà, quindi pensare che con il federalismo fiscale, invece di agevolare, perché questa era l'aspettativa che si era creata, quindi agevolare e alleggerire semmai il prelievo sulle imprese, sugli stessi cittadini, invece ci troveremmo rispetto a un ribaltamento, diciamo, di questa che era l'idea più diffusa dell'effetto del federalismo. Questo metterebbe in difficoltà le imprese, che devono invece pensare per adesso a superare la crisi, poi a investire, cercare di crescere e creare lavoro, e mi pare che la direzione non è quella giusta. Voi avete fatto anche degli studi perché avete notato due cose: da un lato quanto aumenterà la pressione fiscale, dall'altro anche la differenza tra quanto pagherà in più un commerciante o un artigiano rispetto a un lavoratore dipendente. Allora, 20.000 euro di reddito dichiarato, fascia di 20.000 euro di reddito, si troverà a pagare un artigiano o un commerciante 420 euro in più all'anno contro i 100 euro in più all'anno del lavoratore dipendente. Se invece dichiara 40.000 euro annui, pagherà 840 euro in più all'anno contro i 400 euro in più all'anno del lavoratore dipendente, quindi con una differenza tra lavoratore autonomo, in questo caso commerciante, artigiano, e lavoratore dipendente di 400 euro. E poi chi dichiara 60.000 euro di reddito all'anno sborserà 1.000, ecco perché la cifra, fino a 1.260 euro in più se autonomo, 800 euro in più se dipendente. Vorrei capire come mai questa differenza tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente, e poi una seconda domanda sull'impianto complessivo della vostra ricerca. Ma è chiaro che l'impostazione, diciamo, del prelievo fiscale già oggi è penalizzante, diciamo, per le piccole e medie imprese. Ma il problema non è quello tanto del rapporto tra noi e il lavoro dipendente. L'aspettativa era che il federalismo fiscale alleggerisse addirittura il prelievo sulle imprese e sui cittadini. Qui mi pare che quello che vogliamo sottolineare è che rischiamo di varare un federalismo fiscale che complica le cose per le imprese così come per gli stessi lavoratori dipendenti, quindi che invece di avvicinarli allontana, diciamo, questi settori, queste imprese, i cittadini, eccetera, da un'operazione che la cui attesa era positiva e non negativa, perché quando aumenta il prelievo fiscale vuol dire drenare risorse dalle imprese che investono per innovazione, per occupazione, eccetera, e li buttano nel calderone pubblico, insomma. Quindi mi pare che la direzione è proprio opposta a quella che ci si aspetta. Ecco, io vedo alcuni messaggi però che dicono sì, ma tanto con le dichiarazioni dei redditi dei commercianti e degli artigiani, voglio dire, 20.000 euro sappiamo che non sono veri, mentre 20.000 euro o 40.000 euro di un lavoratore dipendente sono veri. C'è un po' di polemica sulle... Contesto questa affermazione per il semplice fatto che noi abbiamo aderito agli studi di settore, abbiamo portato avanti proprio le associazioni un'operazione di sensibilizzazione nel corso degli anni, siamo arrivati a un rispetto altissimo degli studi di settore, adesso non ci si può dire questo perché altrimenti tutto il nostro sforzo viene vanificato e ritengo che sia sbagliato anche in termini di prospettiva. Vabbè, restiamo sul tema invece del federalismo, perché poi vorrei passare invece alla situazione dei suoi associati a Vicenza, Padova e provincia anche di Verona. Ma insomma, voi mi sembra di capire che da questo studio diate per scontato che le regioni tutte si posizioneranno sulla parte più alta dell'addizionale, cioè di quella tassa che è a disposizione delle regioni. Perché il governo dice, attenzione, voi potete andare dallo 0,5 al 2%, potete anche non avere addizionali IRPEF, potete anche andare sotto. Quindi fare... Per cui, insomma, voi perché date per scontato che tutte le regioni si posizioneranno al 2,1%, che è la parte più alta dell'addizionale possibile? Perché tutta la partita si gioca sulla spesa. Se le regioni non tagliano la spesa pubblica, è chiaro che saranno costrette ad alzare il tiro e quindi la pressione fiscale. Questa è la nostra preoccupazione, non è che abbiamo detto hanno deciso già, però obiettivamente siamo scettici sul fatto che ci sarà un'opera di potatura consistente da parte delle regioni sulla spesa pubblica. Le due cose si sposano, perché o si fa a debito o si aumenta la pressione fiscale se non si taglia la spesa pubblica. Quindi questo è il nodo vero che dobbiamo chiarire. La nostra è una provocazione, chiaramente, però vorremmo che le regioni, per esempio in questo caso, ci rispondessero e ci dicessero che non intendono assolutamente, che intendono tagliare la spesa pubblica, gli sprechi soprattutto, e che quindi questo non avverrà. Va bene, vedremo se arriverà questa risposta. Ho capito il senso dell'allarme. Grazie al presidente Confesercenti Venturi. Vedo molti messaggi sul tema ancora della famiglia, del quoziente familiare. Ne parliamo domani. In una battuta, però, alcuni dicono: ma perché se uno ha voluto i figli, perché deve chiedere degli aiuti? Ok, allora non parliamo più del quoziente familiare, non ne parliamo proprio. C'è chi dice: per poi avere le mamme che portano coi SUV i bambini all'asilo. Vabbè. Invece interessante chi scrive dalla Francia e dice: busta paga in Francia per gli stessi figli che ho io, cioè due, 900 euro di aiuti contro gli 87 euro che ricevo in Italia. Questi sono fatti e non chiacchiere. Il GR, poi parliamo degli industriali di Vicenza che non vogliono pagare le tasse se non aiutati. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso non possiamo ancora parlare delle politiche per la famiglia, ripeto, domani faremo un intero approfondimento. Vedo molti messaggi sul studio della Confesercenti. Sull'IP è un ragionamento, l'ha spiegato bene il presidente della Confesercenti, per cui loro temono che tutte le regioni andranno all'aliquota addizionale massima al 2,1% e hanno fatto lo studio di quanto potrebbe costare da 400 euro in più all'anno fino a 1.600 euro in più di tasse all'anno. Vedo molti messaggi su questo, però il tema mi sembra abbastanza chiuso per ora. Sugli aiuti in Francia alle famiglie vi dico solo che si può scaricare la babysitter, per cui insomma un altro mondo. Però Andiamo ai temi di oggi, fermo restando che appena uscita la notizia l'oro ha toccato un nuovo record a quota 1400, ce l'ha fatta, è un po' che ci tentava, 1400 dollari l'oncia, mentre gli Stati Uniti, in una giornata in cui le borse europee sono rimaste invariate sostanzialmente, perdono ancora lo 0,4%, i conti della Chrysler. E poi il Veneto sott'acqua, meglio alcune province, Vicenza in particolar modo, parti del Padovano e parti del Veronese alle prese con i danni post alluvione. 349-238-6666 per gli sms. Allora, finalmente sono arrivati questi conti da Chrysler, quindi la controllata Fiat negli Stati Uniti, per chiamarla così. 239 milioni di utile operativo, ha alzato tutti gli obiettivi sul 2010 e Marchionne, Sergio Marchionne, ha detto questi sono solo l'inizio per far diventare Gruppo Chrysler una casa automobilistica vibrante e competitiva. E poi ha detto attenzione, la Fiat torna, il lingotto torna negli Stati Uniti con lo sbarco della 500. Il lingotto, la Fiat ha il 20% della Chrysler, ha un'opzione per salire fino al 35%, il governo americano al 10%, tuttora i sindacati americani il 67% delle azioni Chrysler. La vera domanda è questa: erano questi i dati a far muovere il titolo Fiat in queste... La settimana scorsa ci siamo anche occupati del caso chiamandolo un piccolo giallo con le note della Pantera Rosa, oppure no? La giro volentieri ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, credo di no, nel senso, ecco, che il momento in cui i risultati della Chrysler, positivi come tu hai detto, inizieranno a influire operativamente, diciamo finanziariamente, direttamente sul bilancio della Fiat è ancora abbastanza lontano. Ricordiamo che Fiat ha iscritto la quota in Chrysler a costo zero perché non l'ha pagata, non ha sborsato cash per comprarla, ma per cominciare a contabilizzare gli utili dovrà innanzitutto consolidarla e in secondo luogo, per consolidarla serve il consolidamento per poterla incorporare direttamente, appunto. Certo. Potrà contabilizzarli anche prima, ma solo quando gli utili fatti dalla Chrysler avranno cancellato le perdite. E ricordiamo che in base ai conti anche di questo trimestre la Chrysler è in utile operativo, ma il risultato netto è ancora in rosso e lo rimarrà ancora per qualche trimestre, perché sappiamo che Chrysler è comunque gravata dall'onere del debito che ha contratto col governo americano, quello canadese e con i fondi pensionistici. Quindi diciamo che la situazione finanziaria, anche se il business adesso genera cassa, avrà bisogno ancora di qualche trimestre, se non di un paio d'anni, prima di tornare alla totale, a una salute diciamo totalmente ristabilita. Quindi per farla breve è allora che Fiat potrà anche finanziariamente sfruttare appieno le sinergie con Chrysler. Ma allora, scusa se ritorno sul tema, il motivo per cui Fiat è cresciuta così tanto la settimana scorsa, dopo che erano usciti dei dati brutti sulle immatricolazioni che riportavano la quota Fiat come auto immatricolata in Italia ai livelli del 2005, quali sono? Perché insomma il titolo è a 12,80 euro, oggi è chiuso invariato. Sono solo i consigli dati da Goldman Sachs, comprare il titolo arriverà fino a 21, o da UBS, di cui abbiamo fatto notare senza malizia che Sergio Marchionne fu vicepresidente fino a qualche mese fa, anche lì il titolo può arrivare fino a 21, cioè bastano le indicazioni di due banche d'affari? Beh, sicuramente molti analisti finanziari hanno rivisto al rialzo i loro target dopo i dati forniti da Fiat il mese scorso. Certamente poi bisogna ricordare che anche altri titoli del settore hanno avuto performance positive, quindi è vero che il mercato in Europa dell'auto va maluccio e probabilmente non andrà bene fino alla fine dell'anno prossimo, è anche vero che Fiat, come molti altri costruttori, traggono punti positivi dall'andamento di molti mercati emergenti, dal Brasile alla Cina alla stessa Russia che sta recuperando, quindi il quadro è abbastanza complesso e non tutto negativo, e quindi probabilmente, ripeto, in questa situazione può darsi che anche a quelli di cui la loro clientela probabilmente abbiano avuto un'influenza. Ovviamente, se posso aggiungere solamente, sì, per quanto riguarda Chrysler, che come sappiamo non è ancora quotata in borsa, è stato confermato oggi da Marchionne, dovrebbe tornarci nella seconda metà dell'anno prossimo. Questo fattore tra l'altro contribuirà, tornando alla domanda di prima, anche a dare una valorizzazione più precisa a quanto vale il 20% attualmente in mano a Fiat, che diventerà probabilmente il 35% entro la fine dell'anno prossimo. Grazie Andrea Malana. Adesso il traffico lo anticipiamo leggermente perché voglio aprire poi la pagina, avere spazio per la pagina dedicata alle imprese di tutti i generi, manifatturiere, artigiane, dei servizi dell'area colpita dall'alluvione di Vicenza. 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, secondo le prime stime, 1 miliardo di danni nelle aree alluvionate del Veneto. Oggi, dopo il sopralluogo, Guido Bertolaso ha parlato di danni per centinaia di milioni. Ieri il vicepresidente degli industriali di Vicenza, al microfono di Radio 24 in esclusiva, ha detto: attenzione, o lo Stato ci dà una mano o se no noi faremo l'obiezione fiscale. Allora parliamo della situazione nell'area del Vicentino. Eh sì, torniamo a parlare di Vicenza perché l'allarme, il disagio, i danni sono solo a metà strada. Torniamo a parlarne dopo la trasmissione che abbiamo dedicato venerdì e dopo l'appello che è arrivato proprio dai microfoni di Radio 24 da parte del vicepresidente degli industriali vicentini. Oggi lo trovate su tutti i giornali, che dice: attenzione, qui o lo Stato ci aiuta oppure noi potremmo anche entrare in sciopero fiscale, non pagare le tasse. Tutti a sostenere che quello di Vescovi e della Confindustria di Vicenza è un appello, un grido di dolore. Noi abbiamo avuto anche ospite il presidente degli artigiani di Vicenza. Prima ne abbiamo parlato con il presidente della Confesercenti a livello nazionale. Sentiamo altre dichiarazioni. La proposta di rivolta fiscale trova l'appoggio del parlamentare del gruppo misto e imprenditore, ex presidente degli industriali di Vicenza, Massimo Calearo. Ascoltiamo al microfono della nostra Laura Bettini. Il nostro popolo è abituato sempre a quel detto alpino, tasi e tira. E alla fine, stando zitti, non si ottiene niente, perché c'è un'altra parte del paese invece che grida e piange sempre. È ora di smetterla, è ora che anche Roma e tutto il paese senta che stiamo soffrendo. Sta soffrendo la gente, le famiglie, stanno soffrendo le imprese. E quindi, se serve dare un segnale forte anche da un punto di vista fiscale, da imprenditore prima e dalla parlamentare iscritto a nessun partito ma il gruppo misto, sono d'accordo con il vicepresidente Vescovi nel suonare forte il campanello. E allora, d'accordo Calearo, che cosa ne pensa il ministro Sacconi, che prima abbiamo ascoltato invece sui temi della famiglia? Vedo molti messaggi, domani dedicheremo la puntata al quoziente familiare. Vedo anche molta polemica sulla frase di Sacconi che ha detto, insomma, diamo gli incentivi solo alle coppie sposate con figli. Domani facciamo buona parte della puntata su questo. Invece Sacconi ha parlato anche delle risorse per quello che riguarda le zone alluvionate del Veneto. Ha detto le risorse ci sono, ma basta sciacalli, quindi confermando che questi 20 milioni dovrebbero essere solo l'anticipo. Poi una risposta anche un po' piccata, per essere buoni, al nostro Simone Spezia. Comunque sentiamo il ministro Sacconi. I 20 milioni che sono stati inizialmente assegnati alle gestioni commissariali, che nelle prossime ore verranno definite coincidenti con i presidenti di regione, sono solo i primi fabbisogni utili ad affrontare le emergenze e contemporaneamente a fare la ricognizione sui danni che ci sono stati. Quindi io capisco il timore preventivo che ci può essere in coloro che sono stati colpiti, che vanno sempre rispettati anche nella loro legittima ansietà, insicurezza, preoccupazione che in questo momento vivono. Capisco meno i tanti sciacalli che girano intorno all'alluvione. Le risorse, le riuscite a ricavare? Le risorse ci sono tutte quelle che serviranno e che saranno indicate. Non ha senso che persone che non hanno vissuto questa tragedia alimentino uno stato di legittima insicurezza che vivono coloro che sono colpiti dalla tragedia. Le risorse ci sono tutte, perché per questi bisogni vale il criterio della spesa obbligatoria. A chi fa riferimento, Ministro, quando parla di sciacalli? A tanti, a tanti. Questo è il tempo degli sciacalli. E allora siamo in collegamento con il presidente della piccola industria e Confindustria, Vincenzo Boccia. Presidente, innanzitutto buonasera. Buonasera a lei. Ascoltiamo il vicepresidente di Confindustria Vicenza che dice nel fine settimana ha insomma lanciato questo appello molto forte e anche questa minaccia. Sentiamolo, microfono proprio di Radio 24. Stamattina sembra un altro paese, un'altra città. Se domani verrà qualcuno a vedere, dicono: ma voi veneti vedo che sapete arrangiarvi da sole, quindi avete fatto molto bene, bravi, e quindi arrangiatevi pure. La considerazione è che ci arrangiamo anche con le tasse, se permettono, cioè bisogna ricostruire quello che è stato distrutto, i macchinari, ricomprarli, eccetera. C'è un po' un fermo produttivo, che è una cosa gravissima in un momento peraltro in cui il nostro manifatturiero sta soffrendo. Tenga conto che il manifatturiero vicentino esporta più della Grecia, questo manifatturiero tiene su una buona parte dell'economia italiana, quindi se lo Stato in questo momento, poi quando sarà tutto a posto eccetera, viene qua e dice: ah, ma che bravi, vi siete arrangiati, beh, in futuro ci arrangiamo ancora da soli. Questa volta non passa così normale, non passa così, perché non è possibile, cioè non siamo veramente stufi. Allora, il vicepresidente dell'Industria di Vicenza, Luciano Vescovi, che dice: vabbè, se dobbiamo arrangiarci da soli, facciamo da soli anche con le tasse. È un principio chiaramente limite, quasi una provocazione, che però viene molto condivisa, a giudicare dalle reazioni. O lo Stato ci aiuta o non ci chiede il prelievo fiscale. Allora, Presidente Boccia, visto che poi sono soprattutto i piccoli, non solo, ma soprattutto i piccoli a soffrire, provocazione oppure anche misura estrema ma concreta? Quella di non pagare le tasse se non riceveranno aiuti? Ma direi una provocazione, perché le regole del gioco e del paese vanno sempre rispettate. È chiaro che dobbiamo uscire dalla nevrosi e dall'ansietà. Mi sembra anche di capire dalle parole del Ministro che non c'è, diciamo, alcuna volontà di lasciare a piedi le piccole imprese del Veneto, a cui chiaramente teniamo tutti. L'idea di lanciare da parte nostra e di prevedere un tavolo governativo che coinvolga tutte le istituzioni per definire immediatamente quello che c'è da fare ci sembra, diciamo, una grande opportunità per capirlo nell'immediato. È chiaro che capiamo, comprendiamo la rabbia del senso di solitudine che tutte le imprese italiane hanno e che in particolare in Veneto stanno vivendo in funzione dell'alluvione. Mi permetta di sottolineare un aspetto: penso che in questo momento non serva a nessuno, come dire, elevare delle contrapposizioni che non servono davvero a una visione di direzione di paese. Questo è un paese che vive di italianità, di Made in Italy che esportiamo nel mondo. Abbiamo bisogno di una risposta immediata, chiaramente, delle istituzioni per quanto riguarda le tragedie su quelle che sono gli fondamentali dell'economia accaduti a Vicenza, ma su questo smettiamola, come dire, di provocare dal punto di vista di contrapposizioni, come ho sentito da Calearo, perché penso che solo questo non serva a nulla. Quindi, se ho ben capito, voi vi aspettate una risposta immediata. Temete, e questa non è una provocazione, Presidente Boccia, ma è un dato di fatto, temete che il governo e la maggioranza in questo momento possono essere distratti, paralizzati, distolti da altro, ossia, cioè, dal rischio sempre più concreto di andare alle elezioni? Sì, noi temiamo questo, e significherebbe, diciamo, una disattenzione fondamentale del paese. Temiamo quanto emerge chiaramente dalle parole del vice presidente di Vicenza, che questa questione non venga concepita per quello che è, cioè un'emergenza reale del paese, e invece, come dire, sia presa in termini di distrazione su altri elementi. Le parole del vicepresidente di Vicenza elevano l'attenzione su una dimensione importante. Non solo, noi lanceremo una sottoscrizione tra i nostri associati per quanto riguarda una vicinanza ai colleghi, appunto, che hanno subito danni in funzione dell'alluvione, e ci sembra, come dire, un bel gesto da parte di chi innanzitutto fa al proprio interno e poi chiede. Siamo in un'emergenza, i nostri colleghi stanno vivendo un'emergenza, stiamo parlando di una regione che contribuisce al prodotto interno lordo del paese in maniera elevata, e riteniamo che si debba ripartire dalle imprese, perché attraverso esse che si recupera immediatamente il lavoro e la vita ordinaria di ogni cittadino. Allora, restiamo sul concreto. Presidente Boccia, quando è che sarà operativa la sottoscrizione tra gli associati di Confindustria e a partire dalla piccola industria per i vostri colleghi vicentini? Il tempo di verificare, come dire, l'apertura di un conto corrente, di concertarla insieme ai colleghi, ma nel giro di qualche giorno partiremo. Grazie, in bocca al lupo soprattutto a tutti i piccoli imprenditori dell'area, gli artigiani, i commercianti, tutti quelli che stiamo seguendo da questi giorni. Grazie al presidente della piccola industria Confindustria, nonché vicepresidente, Vincenzo Boccia. Ed è appena uscita una notizia per cui domani il Presidente del Consiglio Berlusconi e il leader della Lega Umberto Bossi saranno in Veneto per fare il punto sul maltempo. Quindi tre notizie in diretta: l'oro, nuovo record, $1,400, la presenza di Berlusconi e Bossi in Veneto, e poi il ministro Sacconi che corregge il tiro sulla famiglia, gli aiuti anche ai figli delle coppie di fatto. Caro Giuseppe Cruciani, ti occuperei anche tu di famiglia, di promesse, di intenzioni? Noi abbiamo chiesto fatti, abbiamo chiesto che qualcosa cambi, non ne possiamo più. E secondo te il parlare di quoziente familiare, di abolizione delle province, è un segno che ci stiamo avvicinando alle elezioni? Non lo so, può essere. Certo che c'è grande confusione, soprattutto dopo il discorso di ieri di Fine Perugia, che doveva chiarire alcune cose, in realtà le ha rese ancora più confuse, perché non si sa quale sia l'orizzonte, se ci sarà una crisi, se non ci sarà una crisi, quando ci saranno le elezioni. Ce ne occuperemo la Zanzara tra poco. Quindi fini, ma non la famiglia. Tra poco la Zanzara, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.